Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo Radio Zanardi, lunedì 12 ottobre. Cominciamo subito con Radio Bullet, poi parleremo della crisi che in America Latina arriva anche al Cile, parleremo della Brexit, parleremo della Siria curda e naturalmente anche dell'eterna fibrillazione del governo italiano, ma subito appunto colleghiamoci con Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nell'appuntamento del notiziario in genere a cura di Lena Maggiaro e con la voce al microfono di Barbara Schiavulli. Questi i titoli di oggi. La donna bionica e il perdono. In Francia ancora in piazza la violenza domestica costa anche a tutta la società. Nel Regno Unito la maxi denuncia contro gli abusi sulle donne compiuti da appartenenti alle forze dell'ordine. Questo e molto altro nel web notiziario in genere di Radio Bullets. All the lights couldn't put out the dark. Running through my heart. Lights off and they know who you are. Know who you are. Do you know who you are? Centinaia di donne hanno preso parte nei giorni scorsi alle cosiddette proteste irriducibili nel centro di Parigi, cercando di sollevare l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema della violenza domestica contro le donne. Secondo le associazioni locali, si ritiene che già oltre 120 donne siano state uccise quest'anno come conseguenza diretta della violenza domestica in Francia. Le manifestanti e i manifestanti hanno sollevato cartelli con nomi delle vittime francesi e hanno realizzato un'azione dimostrativa stendendosi per terra e cantando «Non una di più». Sardine Boucher, che dirige un'associazione di vittime la cui sorella è stata bruciata a morte nel 2017 dal suo partner di fronte alla figlia di 7 anni, ha detto alla Reuters che il bilancio delle vittime è inaccettabile. La Francia è uno dei paesi in Europa più colpiti dal femminicidio, si legge su Euronews. Solo nel 2018 ci sono stati 121 femminicidi, donne morte per mano dei partner. Una ogni 3 giorni, finora nel 2019 ce ne sono state più di 120. Delle 149 persone nel 2018 che sono state uccise dai partner o ex partner, 121 erano donne e 28 erano uomini, secondo il Ministero degli Interni francese. Uno studio condotto dalla Polizia Nazionale francese e dalla Gendarmeria Nazionale indica anche 21 bambini sono morti a causa della violenza domestica. La stragrande maggioranza degli assassini è stata eseguita con armi. Le ragioni principali alla base dei femminicidi e degli omicidi sono le controversie e la riluttanza a separarsi. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'82,2%, gli omicidi sono stati commessi in casa. Una maxi denuncia ufficiale sta per essere avanzata nel Regno Unito contro la cultura del club ragazzi all'interno di determinate forze di polizia, una cultura che consente agli ufficiali di abusare di coniugi e partner senza timore di arresti o azioni penali, lo riporta il Guardian. La denuncia, che sarà presentata dal Center for Women Justice, descriverà una miriade di carenze del sistema quando sono i rappresentanti delle forze dell'ordine a essere denunciati per violenza domestica contro le donne con cui sono in relazione. Al centro della denuncia ci sono almeno 12 casi in cui le donne hanno presentato accuse di abusi domestici e violenza sessuale nei confronti di un ufficiale, ma il caso è stato archiviato e si è addirittura arrivati invece ad arrestare e minacciare la presunta vittima. La settimana scorsa sono emersi i dettagli di un caso in cui una poliziotta ha affermato di essere stata costretta a lasciare il lavoro dopo aver presentato una denuncia contro il fidanzato, a sua volta ufficiale in servizio. Nogan Hofer, avvocata del Center for Women Justice, che sta lavorando sulla mega denuncia, ha dichiarato: «Siamo preoccupati per la mancanza di integrità del sistema e il potenziale di manipolazione impropria quando le forze di polizia indagano sui propri ufficiali in questioni così delicate. Abbiamo sentito da molte donne la mancanza di fiducia nei sistemi attuali». Hofer ha incontrato alti funzionali del College of Policing dell'Independent Office for Police Conduct e dell'Ispettorato di Polizia e dei Servizi Antincendio e di Soccorso di Sua Maestà per discutere della maxi denuncia. Quasi 700 casi di presunti abusi domestici in 3 anni che coinvolgono agenti di polizia e personale sono stati segnalati ad aprile 2018, secondo quanto ricordato dai dati ufficiali in seguito alle richieste di accesso agli atti avanzata dall'Ufficio di Giornalismo Investigativo PBIJ. I dati provenienti da 3/4 delle forze dell'ordine hanno dimostrato che i dipendenti della polizia accusati di abuso domestico hanno 1/3 in meno di probabilità di essere condannati rispetto al grande pubblico. Meno di 1/4 dei reclami ha comportato un'azione disciplinare. La polizia di Great Manchester ha emesso una sola condanna di fronte a 79 segnalazioni in 3 anni. Nell'ultima settimana sono emersi i dettagli di un caso che coinvolge la polizia di Kent, accusata di proteggere un ufficiale di polizia che, questa accusa, controllava e abusava fisicamente di alcune giovani tirocinanti con cui usciva. Sara ha iniziato ad uscire con Jocelyn dopo che un'altra recluta, Josie, lo aveva denunciato per stalking. La polizia di Kent non aveva reagito alle sue denunce. Ignara del suo passato, Sara ha riferito diversi assalti, incluso un'accusa di averla inchiodata al muro mentre teneva in mano un coltello, ma Jocelyn non è mai stato arrestato. Hanno scelto di proteggere la reputazione della forza. Mi sono fidato delle forze di polizia per proteggermi, invece ho perso ogni fiducia in loro, ha detto. Sara e Jody, i nomi sono fittizi, stanno raccogliendo fondi per la battaglia legale contro la polizia di Kent, che protegge, dicono, un autore di violenza domestica che a quella polizia appartiene, è letteralmente nel club dei ragazzi, non posso descriverlo in nessun altro modo, dice Sara. Mi ha minacciata dicendo: se dici loro come sono finirai per perdere il lavoro. Alla fine aveva ragione, si legge sul Guardian. Harriet Weistrich, direttrice e fondatrice del Center for Women Justice, ha definito il caso un buon esempio di una cultura sessista pervasiva all'interno della polizia che favorisce la lealtà maschile a discapito della ricerca delle responsabilità di coloro che abusano. Weistrich ha aggiunto: purtroppo non è un caso isolato, ma illustra i guasti sistemici che richiedono un cambiamento. Molti dei casi raccolti al centro, ha confermato Hofer, riguardano donne poliziotte che avevano subito una vittimizzazione e le cui carriere erano state gravemente colpite. Hofer ha dichiarato: proponiamo che tali casi vengano trattati al di fuori della polizia interessata. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms. Il mese di ottobre è quello della consapevolezza della violenza domestica. È il momento per tutti noi di fare una pausa e conoscere la violenza domestica e i suoi impatti su individui, famiglie e società nel suo complesso. La verità, scrive Forbes, è che la violenza domestica, chiamata anche violenza del partner, è incredibilmente diffusa. Di fatto, 10 milioni di persone subiscono ogni anno abusi domestici solo negli Stati Uniti. Una donna su 3 e un uomo su 4 hanno subito qualche forma di violenza fisica da parte di un partner intimo. Pensaci un attimo, ciò significa che se sei stata in una stanza con 3 donne, le probabilità sono che una di quelle 3 donne abbia subito violenza domestica. Che cos'è la violenza domestica? Forbes ricorda che comprende effettivamente una serie di comportamenti, inclusi ma non limitati a abuso fisico, abuso sessuale, abuso verbale, abuso emotivo, coercizione riproduttiva, abuso digitale, abuso finanziario. La violenza domestica colpisce ovviamente le vittime in molti modi dannosi, fisicamente, emotivamente e altro. Un sondaggio del 2018 dell'Institute for Women's Policy Research ha rivelato quanto profondamente la violenza domestica possa influenzare l'educazione, la carriera e la stabilità economica delle sopravvissute nel corso della loro vita. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, l'impatto finanziario della violenza domestica varia da individuo a società. Il costo economico a vita associato ai diversi medici, la perdita di produttività dovuta al lavoro retribuito, la giustizia penale e altri costi è quantificato in 3,6 miliardi di dollari. Il costo della violenza domestica durante la vita di una vittima è di $103,767 per le donne e $23,414 per gli uomini. Lindsay Wagner ha interpretato la donna bionica in televisione, ma nei giorni scorsi l'attrice ha dimostrato i suoi poteri sovraumani di perdono, compassione e prospettiva. Wagner ha tenuto il discorso principale al quarto vertice annuale dell'Empowerment Globale dell'Università di California. L'evento chiamato Investire nei futuri trasformatori mirava a costituire inclusività e uguaglianza, coprendo argomenti come la violenza domestica e la tratta di esseri umani. Attrice premiata con Emmy e icona della cultura pop degli anni 70, la Wagner ha recitato in oltre 60 film e miniserie, ma è meglio conosciuta come pioniera delle donne in televisione. Alla Rady School of Management del UC San Diego ha descritto per il pubblico come aveva guadagnato una prospettiva sulla violenza domestica a cui ha assistito da bambina, trovando compassione e consapevolezza sia per sua madre che per il suo patrigno. Innanzitutto si legge sul San Diego Union Tribune della lotta domestica a cui ha effettivamente assistito. Ha poi descritto lo scenario come poteva immaginarlo ora, da adulto, con empatia e compassione sia per sua madre che per il suo patrigno. Non possiamo semplicemente risolvere un lato del problema, quando sarà sempre una dinamica. È anche importante abbracciare l'altra parte della dinamica e dare potere agli uomini e favorire un luogo sicuro in cui evolversi, ha detto la Wagner. L'attrice ha spiegato di aver lavorato con un amico in un programma per abusatori di violenza domestica detenuti nella prigione della contea di Los Angeles. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Se volete sostenerci, perché siamo una radio indipendente, potete andare su www.radiobullets.com/sostienici. Sono Barbara Schiavulli e vi aspettiamo domani con una nuova raffica di notizie. Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Questa volta arrivare di lunedì è un vantaggio, parlando del Bologna, perché ieri si è un po' sviluppato sui giornali, anche nelle aree varie di commento, la problematica legata al rigore non dato al Bologna. A me piacerebbe invece soffermarmi sull'aspetto tecnico della partita, e prendere quello di buono, cioè avere un Bologna che gioca sempre, che non si dà mai per vinto, e cercare di andare a risolvere invece quegli errori che hanno portato ai due gol segnati dalla squadra di Sarri. Il primo, non è mai diciamo così molto elegante parlare dei singoli, ma probabilmente iniziare a fare un'analisi sul portiere, che anche sabato prende gol sul suo palo. È vero che durante la partita fa poi due bei interventi che salvano la sua porta, però mi sembra un giocatore in questo momento che abbia qualche difficoltà, e lì mi auguro che lo staff tecnico Mihajlovic, che ieri, che domenica era in sabato era in panchina, e gli altri stiano valutando correttamente se sia il caso o no di passare magari qualche giornata facendo giocare Da Costa, che è sicuramente un giocatore di grande esperienza, che dà a mio avviso delle sicurezze. Bologna bene, a me è piaciuto perché non ha fatto mai la vittima sacrificale, ha cercato di rendersi sempre pericoloso, con un centrocampo che a mio avviso ha dei passaggi vuoto, delle sbavature, ma che ha dato quella sensazione che la strada da percorrere è questa, a cominciare da domenica, quando arriva la Samp del nuovo tecnico Ranieri. Quella è una partita da dover vincere per dare continuità anche alla classifica, perché purtroppo con le belle parole, le pacche sulle spalle, uscendo sconfitti, non si fa tanto, non si fa tanta strada in campionato. Però la sensazione è quella che il livello sia importante. Ora ci sarà da gestire le assenze di Medel, di Tomiyasu e vediamo anche di Dykes quanto rimarrà assente, però dare spazio alla panchina facendo giocare tra virgolette i giovani a mio avviso ha testimoniato che questa squadra ha le potenzialità per fare un buon campionato. E onestamente non sono tanti gli episodi in queste prime partite che hanno visto i rossoblu essere, diciamo così, matati dall'avversario, al netto appunto della possibilità di avere magari in un futuro una uniformità di giudizio su certi episodi, perché è vero che probabilmente ci può anche inserire sotto l'aspetto della involontarietà, però è anche vero che se passa quella palla dietro c'è Palacio ed è possibile che possa essere pericoloso andando a tirare. Vediamo domenica, prima che io attendo con molta attenzione, perché lì è da ricominciare a avere un buon feeling con la classifica. Chi ha un buon feeling con la classifica è sicuramente la Virtus, che vince sabato sera contro Varese 87-80, una partita che avevamo previsto molto molto delicata, perché le squadre di coach Attilio Caia sono sempre molto ben preparate e danno sicuramente filo da torcere. Una Varese che aveva visto la vittoria della Virtus in casa contro Andorra, anche quella molto molto sofferta, e aveva cercato subito di chiudere il varco sotto canestro, dove martedì sera soprattutto Gamble era stato molto molto pericoloso. Una Virtus che alla fine la mette sempre sotto l'aspetto difensivo, sotto la fisicità, e riesce a portare a casa la quinta vittoria in campionato, che si aggiunge alle tre vittorie in Coppa. In tutte e due le manifestazioni la Virtus è in testa da sola imbattuta. Dicevamo, una Virtus che alla fine ha come top scorer Teodosic, che sigilla la vittoria con un canestro da tre nel finale veramente degno di nota, che per inciso la Lega non mette negli highlight, però vabbè, questi sono discussioni di lana caprina. 19 punti, diciamo, di Teodosic, ne fa 14 Markovic con forse la giocata della partita, avere un anticipo su Vene che consente di andare in contropiede a Hunter, e poi 13 punti di un Ricci che è stato chirurgico nelle sue triple, e 10 punti alla fine li fanno anche Gaines e Hunter. Varese che probabilmente raggiunge un record storico, tira 41 volte da 3 con un 15 su 41, 37%. La Virtus fa pessima figura ai tiri liberi, 17 su 29, ed è forse anche questa la chiave per cui non riesce magari a chiuderla nel tempo dovuto. Poi una Virtus che ha buoni sprazzi anche da Paiola, con un Wims che fa 4 punti, ma alla fine porta a casa 7 rimbalzi e 9 assist, che sono veramente un marco di fabbrica, un giocatore che è sempre utilissimo, anche se non vede in questo momento con grande continuità il canestro. Ora la Virtus si attesa da due partite, diciamo così, che daranno un po' il senso dello stato di forma dei ragazzi di coach Sasa Georgievic. Martedì a Patrasso in Coppa e sabato a Brescia, invece che sabato anche si è perso nell'anticipo televisivo, e che è sicuramente, come tutte le squadre di Vincenzino Esposito complicata da gestire, soprattutto tra le mura amiche, e le trasferte in Coppa in Grecia non sono mai una passeggiata. Vediamo appunto se la Virtus continuerà ad avere questo tasso atletico, questa efficacia difensiva, soprattutto che aumenta verso la fine della partita, che fino ad oggi ha fatto la differenza. Chi non ha fatto la differenza è la Fortitudo, che va in quel di Roma e perde per nettamente 79-65, più di quanto tu dica il punteggio finale. È vero che mancava Lunen, si è fermato in mattinata, ma una Fortitudo, diciamo così, che sta in partita fino alle ultime battute del secondo quarto, dove finisce sotto di 5 punti, poi all'inizio della ripresa viene, come si dice in gergo, asfaltata dai padroni di casa. Una Fortitudo che in cabina di regia onestamente ha poco sia da Fantinelli che da Stipcevic, che non riescono mai a mettere in continuità. Una Fortitudo che subisce Jefferson, che nel primo quarto fa 14 punti ed è totale dominatore dell'area. Dicevamo, male tutti, non si può salvare nessuno. Nel dopo partita il coach Martino si prende tutte le responsabilità, dice: una squadra che non può cedere così di schianto al di fuori delle mura amiche del Paladozza e subire nettamente il gioco degli avversari. Alla fine ne fa 16 Robertson, ma più nel garbage time, 10 Stevens, 11 Cinciarini, che onestamente assieme a Dell'Osto è l'unico che salverei di questa partita. Una Fortitudo che subisce fisicamente, subisce anche nettamente, anche al rimbalzo, e che pare appunto non avere equilibrio in cabina di regia e quindi di non trovare continuità in attacco e di lasciarsi un po' andare. Nettamente al rimbalzo, ora ci sarà da capire l'entità dell'infortunio di Lunen, che è sicuramente un giocatore importante, anche se fino a questo momento è stato molto silente, soprattutto in attacco. Ora è quello che domenica arriva a Pistoia, sicuramente una gara alla portata degli uomini di coach Antimo Martino per capire un attimo quale sarà il roster e cercare di magari in settimana mettere un pochino più di benzina in un motore che è sembrato ogni tanto girare un po' a vuoto. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:33 minuti di questo 21 ottobre, lunedì, ripresa della settimana che apre la nostra rassegna stampa con la pagina internazionale e dal meccanismo che sta alla base di tanti conflitti, cioè i mercanti d'armi. Lo facciamo con il Fatto Quotidiano, che per questo lunedì ci dà un'inchiesta che riprende un report che arriva dal SIPRI, che è questo organismo che conta le spese militari. Fabbricanti d'armi, l'Italia è nella top 10 mondiale, quindi vediamo che c'è ben poco da gioire per questa notizia. Quello che viene finito la corsa folle. La crisi non arresta gli investimenti per gli armamenti. Nel 2018 siamo quasi arrivati a livello mondiale a quasi 2.000 miliardi di euro, il 5,4% in più rispetto al 2009. E non è che nel 2009 risparmiassimo come mondo sulle armi, e neanche come Italia. Nonostante i divieti imposti dalla legge, infatti, racconta il Fatto Quotidiano, il nostro paese continua a rifornire stati coinvolti nei conflitti. Ad Ankara vendiamo aerei e Beretta esporta pistola. Ad Ankara vendiamo aerei e Beretta esporta pistole e fucili, accordi con Leonardo per gli elicotteri T-129. Infatti sta per partire la volta di Istanbul degli elicotteri da guerra, quelli che poi voleranno sulle teste dei curdi. Infatti, nonostante la legge del 85, nel 1185 del 90, racconta Nicola Borzi da questa inchiesta del Fatto Quotidiano, quella che proibisce di esportare armi a paesi in guerra o che violano i diritti umani, l'Italia continua a riarmare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti coinvolti nella guerra in Yemen, una guerra costata la vita a decine di migliaia di civili, o a far produrre armi su licenza in Turchia, come gli elicotteri T-129 di Leonardo per 3 miliardi di euro, a venderle come gli aerei ATR-72-600 in versione da trasporto antisommergibili piazzate da Leonardo sempre alla Marina Turca. Sempre in Turchia è presente dal 2000 la Beretta, che vi produce armi da fuoco leggere tramite la controllata Steger Silahsanayi, ex Vursan, vendendole anche al Ministero della Difesa di Ankara. Alcune proposte di legge per stringere le maglie di questi commerci e far rispettare l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, lo ricordiamo anche noi, giacciono da mesi in Parlamento e stanno nei cassetti e vengono sepolti dalle lobby delle armi. E allora i risultati, spostandoci nel territorio curdo, non si fanno attendere. Finirà questa finta tregua l'IPG, l'esercito curdo, non ripiega, quindi riprenderà furiosa la guerra. L'accusa dell'amica, la nostra Evrin uccisa dai jihadisti al soldo di Ankara. Leggo da Lorenzo Cremonesi, che intervista la deputata Omar, che ricorda l'attivista barbaramente assassinata. E lei dice: europei, aiutateci, sì, cari jihadisti al servizio della Turchia hanno barbaramente linciato la mia amica e compagna di lotta Ervin Kalaf, non sono estremisti isolati, fosse così noi curdi potremmo fermarli, ma purtroppo sono parte di un piano molto più vasto e complesso ordito dal presidente turco Erdogan per ricostruire l'antico impero ottomano nella nostra regione. È in atto una vasta operazione di pulizia etnica e al danno dei noi curdi. Erdogan ci caccia dalle nostre terre per impiantarvi popolazioni sunnite che storicamente ci odiano e non esiteranno a massacrare quelli di noi che restano indietro nelle loro case. Europa aiutaci, è pessimista Barontini online di Contropiano, giornale comunista, che appunto dice i fatti e la testa. Secondo noi, per noi è chiarissimo, da 100 anni esatti dalla prima guerra mondiale i curdi sono puntualmente massacrati e traditi. Troviamo una storica differenza tra due ambiti che in genere sfuggono ai tifosi delle giuste cause, che non sanno guardare come materialmente una lotta può vincere o perdere. Il primo è quello delle sintonie politico-culturali che fanno riconoscere come più vicino a sé un movimento popolare in un'altra area del mondo. Il secondo è quello normalmente detto geopolitico, dove valori ideali riguardano solo il foro interno dei diversi protagonisti, mentre bisogna brutalmente ragionare sulla base dei rapporti di forza e di interessi. Quindi, e poi, appunto, secondo questo ragionamento, c'è un complotto che non è solo di Erdogan, ma fa parte anche dell'America e dell'Unione Europea, che cercano di liquidare la resistenza curda. E di Kurdistan e di questione curda, della guerra che si sta scatenando, che si è scatenata in quelle zone, già si parla poco sui giornali, sta già scemando verso l'oblio, se non qualche piccolo esempio virtuoso. In questo caso cito Repubblica, perché è l'unica che nelle pagine internazionali continua a tenere alto il focus. A Erbil, il ragazzo del Rojava ustionato dalle bombe turche, la cui storia è stata raccontata su Repubblica. E poi Giampaolo Cadalanu, inviato appunto di Repubblica, ci parla dell'inchiesta sul fosforo bianco. Ci dice: Mohamed sta soffrendo molto per le ferite, racconta il padre. Dopo quello che è successo, anche le sue condizioni psicologiche sono peggiorate. Quando i medici gli chiedono se ha dolore, tutto quello che riesce a dire è sì. Ma non è il solo a soffrire, sono 6 le persone che secondo le autorità sanitarie del Rojava sono state ricoverate con segni di ustioni insolite. L'ipotesi è che i militari turchi abbiano lanciato ordigni al fosforo bianco, il cui uso è vietato dalle convenzioni internazionali nelle zone popolate. Forse una prima indicazione verrà dai sanitari di Erbil, perché negli ospedali del Rojava non c'è la tecnologia sufficiente a dire con certezza che cosa ha causato le ustioni. Mentre Mohamed riposa sotto controllo dei medici, gli ultimi miliziani delle forze democratiche siriane stanno lasciando Serekaniye, la città dove i combattimenti sono stati più forti, senza mai interrompersi nemmeno durante il cessate il fuoco. Era circondata dalle milizie filoturche, che però hanno permesso l'apertura di un corridoio per l'evacuazione. Con l'insediamento voluto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan dei profughi siriani, oggi in Turchia Serekaniye ritornerà con tutta probabilità ad essere chiamata soltanto con il nome arabo di Ras al Ain. Il portavoce delle forze democratiche siriane conferma, a poche ore dalla scadenza dell'ultimatum di 120 ore stabilito tra Erdogan e il vicepresidente americano Mike Pence, che è prevista per domani, uomini e donne della SDF stanno arretrando al limite del 30 km dalla fascia di sicurezza lunga 120, indicata nell'accordo tra USA e Turchia. La fascia non comprende l'intero confine con la Siria, anche la città di Koban ne è esclusa, ma Ankara ha già fatto sapere che per quella zona aprirà trattative con Mosca. E sempre al centro dell'articolo di Repubblica l'appello di Roberto Saviano, fermate il massacro del popolo curdo, è un appello che lo scrittore ha lanciato, e sul sito lo trovate anche in inglese, per fermare il massacro del popolo curdo dopo l'attacco della Turchia nel nord della Siria. Un appello rivolto all'Europa, alle istituzioni che dovrebbero intervenire per non lasciare solo un popolo che ha aiutato l'Occidente nella guerra contro l'ISIS e che chiede soltanto la pace. Un appello a cui hanno aderito intellettuali, scrittori e premio Nobel. Infatti tra le prime firme troviamo Svetlana Alexievich, Fernando Aramburu, Marc Auger, Martin Caparrós, Annie Ernaux, Elena Ferrante, Bernard Henri Lévy, Hanif Kureishi, Erta Müller, Salman Rushdie, Luis Sepúlveda e Mario Vargas Llosa. Quindi poi potete trovare l'elenco completo delle firme sul sito di Repubblica. Finora, fino alla chiusura del giornale, erano 30.000. Spostiamo continente, andiamo in Cile, negli scenari internazionali del giornale. Il titolo di Paolo Manzo replica un po' il titolo di molti osservatori in TV e giornali. Lo spettro di Pinochet sul Cile, a Santiago è coprifuoco totale. Militari in strada, libertà sospese, divieto di uscire la sera. Bufera sul presidente Piñera, è tanto sensibile al sociale che quando c'erano questi scontri, questo Cile è in bancarotta, lui era a mangiarsi una pizza e viene ripreso, e questo fa ancora più indignare, ancora accende più le barricate di Santiago, le città del come Valparaíso o quant'altro, Viña del Mar. Il paese brucia, lui è al ristorante. Il bilancio è pesante, già 3 morti negli scontri, danni per 200 milioni, arrestate 1.500 persone. Dunque sì, c'è lo spettro di Pinochet. È chiaro che il Tridunione ha la presenza dei carabineros, dei militari in strada, ma la situazione è molto diversa, evidentemente. Non c'è un governo di sinistra da ribaltare e da riportare i latifondisti al governo, che ci sono al governo. C'è una crisi popolare, economica, che accomuna il Cile a tutti gli altri paesi dell'America Latina, piombati, quello era Trump, nella miseria più tetra. Quindi non è più un problema di Maduro in Venezuela o l'Ecuador o la Colombia o il Cile, è un problema di Mercosur. Ma il Cile va in fiamme mentre il presidente mangia una pizza. Quindi il liberismo più feroce, vedi anche l'Argentina, sta mettendo in ginocchio le popolazioni latinoamericane. 3 morti, centinaia di feriti, incendi, barricate e arresti. Ritirato l'aumento della metro, che è stata la miccia fatta esplodere davvero la Santa Barbara cilena. Ma la protesta continua. Resta in vigore lo stato di emergenza in 6 città, divieto di movimento la notte. Sì, ovviamente il Cile apre tutte le prime pagine questa mattina. Santiago del Cile, carri armati per le strade, 3 morti e 1.500 arresti nelle proteste contro il caro vita a Santiago del Cile, appunto, dove tornano i carri armati e coprifuoco come ai tempi di Pinochet. Non è proprio un bel vedere e nemmeno un bel pensare, purtroppo. Coprifuoco totale, ovviamente. In questi casi qua si muovono immediatamente gli sciacalli, Per la prima volta dal ritorno della democrazia i militari sono stati chiamati a pattugliare le strade, ma questo non ha impedito che per tutta la giornata ci siano stati incidenti a Santiago, Valparaíso, Concepción. In alcune zone periferiche dei vandali hanno preso di mira negozi e supermercati. La catena americana Walmart ha segnalato saccheggi in un centinaio di locali. A Coquimbo due donne sono morte dopo l'intervento della polizia che cercava di fermare l'assalto ad un ipermercato. A metà pomeriggio di ieri l'ultimo bollettino dei Carabineros a livello nazionale era di 1462 persone arrestate, ma questo numero era destinato ad aumentare col passare delle ore. È stato inviato al Parlamento un progetto di legge in maniera urgente per annullare i recenti aumenti al trasporto pubblico, intanto, perché questo fa parte dei contenuti delle proteste. A Valparaíso, sede del Congresso, se ne discuterà in una sessione straordinaria già oggi. La presenza di militari in strada ha aumentato la rabbia dei manifestanti. A Iquique, nel nord del paese, i soldati hanno sparato raffiche di fucile in aria per disperdere la folla che stava marciando verso il palazzo del governo locale. Centinaia di video diffusi sui social media fanno da amplificatore ai cacerolazos. Moltissima gente scende in piazza con pentole e coperchi per protestare contro il governo. Tra la gente in piazza le parole d'ordine sono la riforma del sistema tributario, di quello previdenziale oggi interamente privato e con pensioni minime molto basse, il miglioramento della salute ed educazione pubblica, la fine degli aumenti nei trasporti e nei servizi di base come gas, luce e acqua e la fine della criminalizzazione dei movimenti studenteschi. Insomma, in altre parole, ci dice questo articolo che viene direttamente da San Paolo, è in discussione l'intero modello economico e di welfare del Cile, costruito nel corso dei 30 anni di alternanza di governi di destra e centrosinistra. Ma il giornale vede un complotto e lo vede con Carlos Sanchez Berzén. Chi è questo signore? È un signore, un ex politico boliviano esiliato negli USA, poverino, matrice castrochavista. Il suo libro è questo qua, è tutto un programma, eh? Il castrochavismo, crimine organizzato in America Latina. Questo già si dice già chi sia questo personaggio, che dice infatti il caro ticket è un pretesto contro il precedente, un uragano bolivariano, quindi un complotto dei comunisti. Che dimostrazione la matrice americana anche nella presenza cilena in questo momento. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozada. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. imaginas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Ti ricordo Amanda, il bellissimo pezzo di Victor Lara, cileno, nella bella interpretazione del gruppo di Daniele Seppia, che peraltro sarà ospite nel Bologna Jazz Festival nel mese venturo. E andiamo a vedere l'interessantissima pagina degli esteri del Carlino, perché con tutto quello che sta succedendo nel mondo, Europa, mondo in generale, eccetera eccetera, per il Carlino le notizie principali degli esteri sono: invasione di squali a Cape Cod, sotto attacco il paradiso del surf, e seduti a bordo per 20 ore, il volo più lungo al mondo, da New York a Sydney, stretching e bibite per affrontare la tratta senza scali. Il team di psicologi, esperimento riuscito, ora pronti a ridurre anche la durata. Vi dirò che questo si guadagna anche la fotina in prima pagina come notiziona degli esteri. Ma rimaniamo dalle parti della zona americana e panamericana e andiamo in Canada. Il Canada al voto per decidere se è già stufo del fenomeno Trudeau. Scandali e gaffe hanno offuscato la popolarità del premier da 3 milioni di follower. Ora è testa a testa con il leader della destra, quindi mala tempura current anche in Canada. E questo, diciamo che quei presidi che erano rimasti ancora leggermente democratici stanno rischiando grosso. Il rischio di un governo conservatore è reale, per l'ambiente sarebbe un ritorno al passato. La credibilità di Trudeau è in crisi, se avesse fatto di più per il clima la sua posizione sarebbe migliore. A tirargli le orecchie ci ha pensato pure Greta Thunberg. Non hai fatto abbastanza, gli ha detto. Sì, anche il Corriere, questa volta con Michele Farina, scrive: finita la Justin mania, ma Trudeau può resistere anche se vince l'insipido. L'alleanza con altri partiti per fermare il conservatore Scheer, come leggeva già Francesca, una cosa un po' l'italiana, no? Solo che, diciamo, si è giocata la credibilità anche per queste foto. Prima è andata in una festa di amici e si è truccato la faccia di nero, tipo Jim Crow, no? Del memoria razzista dei miei anni del Mississippi, e questa cosa si è saputa e lui è dovuto anche scusarsi. Comunque, sulla vicenda internazionale invece il giornale, a differenza del Carino, dà molto più spazio e fa con Gian Michalessino un volo d'uccello molto psicologista, che però in qualche modo segna una rottura culturale e di credibilità, perché leggo: Spagna, Libano ed Iraq, l'autunno violento delle rivolte giovanili. Naturalmente si mette insieme Rusco e Brusco in questa cosa. Scontri dall'Ecuador ad Hong Kong, il filo conduttore: nessuna fiducia nella politica. L'identikit è una generazione sfiduciata, disconnessa dai grandi media, dall'informazione tradizionale. Non è che l'informazione tradizionale faccia poi un gran bel lavoro, quindi a volte è anche un piacere disconnettersi. E così come discondersi dalla politica non è difficile quando si leggono vicende come quella della Brexit. Le famose due lettere di Boris Johnson, una che dice rinviamo senza essere firmata e un'altra che dice non rinviamo firmandola. Questa è l'Unione Europea che guarda sbigottita questi trappisismi d'accatto di Downing Street. Poi arriva con una terza lettera, come se non bastassero. Brexit, dice allora Luigi Ippolito dal Corriere, tre lettere e un tribunale, perché Jeremy Corbyn, leader dei laburisti, minaccia Johnson di portarlo di nuovo in tribunale perché non obbedisce agli ordini né del tribunale né del Parlamento inglese. Perché Johnson aggira la legge e punta all'uscita il 31 ottobre, sconcerta Bruxelles, è una causa, c'è anche in Scozia e si rischia, e lo vedremo, la disintegrazione del Regno Unito. Per il momento rimaniamo alla Scozia. Cosa succede se l'accordo non viene approvato entro il 31 ottobre? In teoria scatta il no deal, la Brexit a precipizio, senza intese, a meno che l'Europa non dia retta alla prima lettera e conceda una proroga. Se invece dà retta alla seconda, no, Questo è curioso. Questa è l'ipotesi più probabile, perché i leader del 27 non si vogliono accollare alla responsabilità di un divorzio traumatico. Già si discute la durata di un rinvio, potrebbe essere una breve escursione tecnica, ma si parla anche di una proroga più lunga, fino alla fine di gennaio, addirittura fino a giugno prossimo. Questo è quello che arriva. E la Scozia, appunto, che è assolutamente unionista con l'Unione Europea, non ci sta e torna a parlare di referendum per l'indipendenza a mo' di Catalogna, se questa Brexit andrà in porto. Sì, e devo dire che a seconda dei giornali cambiano le date. Per esempio, io ho l'Unione Europea forse è pronta a concedere una proroga fino a febbraio 2020, quindi si tirano mesi a caso per certi versi. Il Labour sta organizzando le contromosse. Dopo molti tentennamenti, il partito sembrerebbe orientato a sostenere l'idea di un nuovo referendum attraverso un emendamento all'accordo di uscita. Il leader Corbyn è scettico e ha sempre detto di preferire l'opzione di elezioni anticipate, ma è sotto pressione da molti pezzi forti del partito. Dobbiamo tornare a chiedere ai cittadini, ha detto Starmer. Il governo ha chiesto di sottoporre l'accordo a un nuovo voto già oggi, ma la richiesta è nelle mani dello speaker John Bercow. Un voto potrebbe avvenire martedì e qualcuno lo chiama Titanic Tuesday. Data l'importanza storica del voto, Jones deve sperare che non sia il suo accordo ad affondare. Questo ci dice la Stampa. E invece dal mondo della Repubblica, Johnson non si piega, già oggi la Brexit torna in Parlamento, il Premier prova a forzare la mano ai deputati, lo scopo è mantenere il 31 ottobre come data limite, ma le incognite sono davvero tanto. E interviene anche Theresa May, che si toglie una soddisfazione, diciamo così, per quel che può valere. Ho come un momento di déjà vu, dice la Theresa, che pure sabato ha esortato ogni conservatore che incontrasse nei corridoi di Westminster a votare per l'accordo Brexit di Boris Johnson. In aula si è fatta scappare una possibile pesante profezia. Il premier attuale, poco prima della sconfitta sul cruciale emendamento Letwin, le ha risposto: Teresa, ora so come ci si sente, tra le risate della Camera dei Comuni. Ho parlato della Scozia, ma chiaramente il focus si sposta più a nord, all'Irlanda, dove il Brexit o non Brexit pone la libertà di confine tra le due Irlande oppure un confine invalicabile. Quindi quello che viene definito per l'appunto da Thomas Catalun del Fatto Quotidiano, il confine più caldo dell'Europa, Nord Irlanda, Brexit riaccende la miccia del conflitto. Verso lo scontro, uscita dall'Inghilterra dall'Unione Europea, il pretesto è per riattivizzare una vecchia guerra mai spenta. Le tensioni tra cattolici e protestanti non erano mai state così forti, l'accordo del Good Friday del 98. La prospettiva di un referendum sulla unificazione poi delle due Irlande potrebbe aggravare ancora la situazione, mentre la leader della DAP, il partito orangista fascista della Nord Irlanda, ha votato no alla proposta di questo accordo possibile di lasciare libere le frontiere tra le due Irlande e lasciare invece i confini delle merci ai porti del resto del Regno Unito. Ma allora il Fatto Quotidiano con Tomaloft Catalone va in un pub della periferia di Belfast, in un quartiere dove i graffiti pretendono ancora che gli inglesi tornino a casa, pretendono ancora, si chiama Irlanda, fino a prova contraria. Un attivista nazionalista che ci dice di essere un ex membro del Sinn Féin, braccio politico dell'IRA, ha accettato di parlarci. Non ti nascondo che il ripristino delle frontiere fisiche sarebbe un favoloso strumento di reclutamento per la causa. Alcuni non aspettano altro, si sono pronti a sparare addosso al primo ufficiale di ogni canale o alla prima guardia di frontiere che si piazzerà davanti e non si sa cosa succederà dopo. Questo è naturalmente il Fatto Quotidiano, che ancora una volta nella pagina estera sta con la destra, invece noi andiamo a vedere con un occhio di sinistra questa vicenda e sentiamo con l'intervista di Carlo Giannuzzi a Matthew Collins, che è un esperto di questione nordirlandese, sulle ricadute della Brexit, che la Brexit potrebbe avere anche nella storica questione nordirlandese. The Defence Association was once the largest paramilitary group in Europe. It had about 10,000 members. Now it has probably less than 1,000, and it has divided itself up. So there is what's called a mainstream UDA. La UDA, l'Associazione per la Difesa dell'Ulster, a un certo punto della sua storia fu il più numeroso gruppo paramilitare d'Europa. Aveva circa 10.000 membri. Oggi ne conta probabilmente meno di 1.000 e ha subito diverse scissioni. Quindi possiamo parlare di una UDA ufficiale, formata da attivisti che hanno accettato il processo di pace, e di una UDA rinnegata, vale a dire membri di cosiddette brigate, con base a Belfast e in altre zone dell'Irlanda del Nord, che continuano a osservare il cessate il fuoco e non mettono in discussione il processo di pace, ma sono più interessati ad attività di racket, violenza e traffico di stupefacenti. Lo UVF, l'esercito volontario dell'Ulster, che è sempre stato il più piccolo dei due gruppi paramilitari lealisti principali, ha messo fuori uso le proprie armi nel 2009 e in linea di massima ha rispettato il processo di pace. Si è macchiato tuttavia di delitti nei confronti di ex attivisti, ha ucciso mi pare 2 o 3 persone. Lo scorso 27 gennaio lo UVF del settore est di Belfast, che costituisce un battaglione e si può considerare rinnegato, analogamente a quanto osservato prima per la UDA, ha ucciso un uomo davanti a casa sua. È importante sottolineare un fatto: nella fase culminante del conflitto l'intero UVF contava forse 1000 membri, aveva una struttura militare e si considerava un esercito. A partire dall'accordo di pace del 1998, il solo UVF di Belfast è arrivato ad avere, secondo le stime correnti, fra i 3.000 e i 3.500 membri. Questo gruppo locale dispone di armi, è piuttosto aggressivo e si è affrancato dal controllo dello UVF ufficiale. Sebbene non prenda iniziative ostili verso i tradizionali nemici politici, dagli anni 2011-2012 è stato attivo in tafferugli, intimidazioni, violenze varie che sono culminate nell'omicidio di cui parlavo prima. Since about 2011-2012, East Belfast UVF has engaged in rioting, intimidation, violence, and obviously yesterday's murder. Uscendo dai confini delle 6 contee dell'Irlanda del Nord, sono state in grado sia la UDA sia lo UVF di mettere radici nel corso degli anni in Gran Bretagna e di mantenerle? The UDA has what it calls commanders. So previously in the 1980s and the 1990s, when the UDA using its nom de guerre, the UFF, the Ulster Freedom Fighters, it had commanders in London. La UDA negli anni 80 e 90, quando eseguiva le sue azioni armate usando un nome di copertura, UFF, Combattenti per la Libertà dell'Ulster, aveva un comandante a Londra, uno a Birmingham e uno a Glasgow. Dall'avvio del processo di pace la UDA ha avuto un solo comandante per l'intera Gran Bretagna. Questa persona ha da poco annunciato il suo ritiro dalle scene. In realtà quello che sembra intendere è che voglia sganciarsi dalla tradizionale militanza nella UDA per seguire più attivamente l'attività del gruppo di ricerca politica dell'Ulster, un organismo politico nato in seno al gruppo paramilitare. Questa operazione è dovuta anche al fatto che la UDA ha un forte legame con il DUP, il Partito Democratico dell'Ulster. I vecchi membri della UDA qui in Gran Bretagna sono sempre attivi nelle bande musicali orangiste, quelle che sono impegnate a tenere in vita i vecchi riti del potere unionista protestante nell'Irlanda del Nord. Lo UVF, che a sua volta ha sempre avuto un seguito molto ampio in Inghilterra e in Scozia, ha le proprie bande musicali che tuttavia sono meno visibili. Diversamente dallo UDA, tuttavia, non ha mai favorito la partecipazione di elementi civili, cioè non interessati all'attività armata. Quindi con la progressiva riduzione dell'attività dello UVF ufficiale nell'Irlanda del Nord, gli affiliati in Gran Bretagna sono passati alla UDA oppure si sono dedicati all'attività nelle bande musicali. Lo UVF mantiene una presenza al di qua del Mar d'Irlanda, ma stiamo parlando di un piccolo nucleo a Londra con un proprio comandante, credo uno a Glasgow, che è sempre stata terreno fertile per lo UVF. Tuttavia lo UVF ha sempre avuto una tradizione di maggiore discrezione rispetto allo UDA, che è sempre stata più appariscente, quindi più difficile seguirne le mosse. Conosco il nome dell'attuale comandante dello UVF a Londra, ma purtroppo non posso rivelarlo. Whereas the UDA have always been very flamboyant, so I'm not going to name the commander of the UVF in London here, I'm afraid. Sappiamo che nel corso della loro storia queste organizzazioni hanno avuto rapporti con gruppi neofascisti, soprattutto in Gran Bretagna, ma in alcuni casi anche in altri paesi europei. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E ora veniamo alla pagina del sadomasochismo delle forze di maggioranza del governo Conti 2, che riempie i giornali nei loro titoli, evidentemente. Oggi vertice di maggioranza, poi seguirà un consiglio dei ministri per vedere se accogliere o meno le avance un po' pesanti sia di 5 Stelle che di Italia Viva. Libero apre Di Maio, taci Conte. Naturalmente i giornali della destra cercano di acuire questo dissenso nella speranza di una crisi di governo, speranza non così recondita, come dire. Il Corriere della Sera, manovra resa nei conti dei conti nel governo. Di Maio al Premier, senti 5 Stelle l'esecutivo non esiste, questo è indiscutibile, ma sembrerebbe che i 5 Stelle avessero accettato i dati dell'esecutivo. Oggi il vertice di maggioranza. Il giornale invece deriva giustizialista, il giorno delle manette, cioè per seguire i evasori fiscali sarebbe il governo delle manette. Oggi la legge Tagliola per mettere in galera tutti quelli che evadono. E Renzi prova a lanciare l'OPA, cioè una prova di acquisto, su Forza Italia. Mentre il Fatto Quotidiano, dall'altra parte, anch'esso entra sul tema dell'evasione fiscale, limitare i contanti è un'arma antievasori, corrotti e mafiosi. Chi lo dice? Il PM Tescaroli, procuratore aggiunto di Firenze, che spiega il perché è necessario ridurre il cash, il contante, il liquido. Il Messaggero, Di Maio Conte, scontro frontale. Il Mattino, Di Maio dà l'out-out a Conte, i titoli sono più o meno analoghi in qualche modo. Di Maio Conte, alta tensione. E alta tensione anche il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno, manovra d'alta tensione, mentre il Secolo XIX parla dell'emergenza del maltempo e mette il governo solo in secondo tempo e quindi abbiamo altri titoli dei giornali questa mattina. Sì, c'è questo asse con Di Maio, tra Renzi e Di Maio, una cosa che mai ci saremmo potuti sognare, nemmeno nei sogni più distopici possibili, e invece ora si crea. Colpevole la volpe, anzi scusi, nel mirino di questa alleanza la volpe, come viene definita da Repubblica, perché dice è iniziata la caccia alla volpe, questa volpe sarebbe il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E è scattato un allarme, ci dice Claudio Tito, sempre dalle pagine di Repubblica. Non è un caso che l'allarme ormai sia sonoramente scattato a Palazzo Chigi e nel PD. Le parole del Premier e del Segretario Democratico nelle ultime ore sembrano pronunciate con una sola voce: vuole la crisi, si parla di Matteo Renzi. Del resto, anche tra i parlamentari renziani nessuno nasconde che alla legislatura serva un nuovo equilibrio, raggiungibile unicamente con un nuovo governo, un nuovo presidente del Consiglio e stessa maggioranza. L'ex segretario Dem punta dunque a sedersi al tavolo della coalizione come legittimo membro dell'alleanza e non da scissionista aggiunto. Il primo passo è allora stressare l'iter parlamentare della manovra, modificare la Camera e il Senato, costringendo la squadra di Conte a correggere l'impianto approvato la scorsa settimana, imprimendo retromarce e balzi in avanti, e quindi creare una situazione di altissima tensione fino a determinare la caduta dell'esecutivo non appena licenziata la manovra. In questo quadro i rapporti tra Renzi e Di Maio hanno di recente subito un'intensificazione inaspettata. Sulla bilancia l'ex premier ha messo la possibilità che un nuovo esecutivo possa essere finalmente guidato da un grillino doc, ossia proprio dall'attuale ministro degli esteri. La tentazione non è sfuggita al capo politico del Movimento 5 Stelle, che infatti ha assunto sulla finanziaria un atteggiamento analogo a quello dei renziani: reclamare un cambio per rispettare le proprie parole d'ordine. C'è insomma una convergenza, magari temporanea, di interessi. Il capo di Italia Viva in questo modo si siederebbe formalmente al tavolo della maggioranza, ma soprattutto romperebbe lo schema che più lo danneggia, l'alleanza Zingaretti-Grillo. Devo dire che Di Maio ha una capacità di accodarsi a quelli che poi si riveleranno i più grandi traditori. Uno si è già rivelato e l'altro insomma è potenzialmente rivelabile e presto si rivelerà pure lui. Di Maio sfida, e non è che ci voglia, come dire, la palla di cristallo per arrivarci. Di Maio sfida Conte, il governo rischia e ottiene un vertice. Il ministro nella manovra i nostri punti imprescindibili, ormai i punti imprescindibili si sprecano. Zingaretti che da Giletti dice: gli italiani non sono coglioni, ci sarà una rivolta, dico ai nostri alleati basta mettere le bandierine, perché appunto i cittadini non sono quello che dicevamo prima e ormai si sono stancati. E poi Di Maio che dice: i toni di Conte mi addolorano, in politica bisogna ascoltare la prima forza. Vediamo se riuscirà Grillo a intervenire in questa cosa, perché altrimenti non c'è. L'unica potrebbe essere una mannaia di Grillo che rompe questo, diciamo, interregno, o questa, come dire, situazione ancora non chiara che lascia spazio a interpretazioni a seconda del momento. E Carlo Sibilia parla, sottosegretario al Ministero dell'Interno, dice il sottosegretario Grillino al Viminale, dice: toni bassi, ma le nostre esigenze vanno ascoltate, specie sulle battaglie storiche. Siamo il primo partito in Italia, evasori in cella non si discute. Si potrebbe discutere sul fatto che aumentare gli anni di cella, se poi non si fanno i controlli, serve come il numero di anni che c'è adesso, ovvero nulla, perché possono diventare anche 100.000 gli anni, ma se tu gli evasori non li vai a pescare, rimane una legge inapplicata, come si dice. Però il tintinnar di manette fa sempre tanto proselitismo. E poi si parla anche della campagna acquisti di Renzi, che è partita alla grande, spunta il primo eurodeputato. Tra le possibili nuove adesioni c'è quella dell'ex presidente della regione Lazio, attualmente deputata di Forza Italia. È interessante, insomma, questo nuovo acquisto che potrebbe rivelarsi. E poi è ancora dalle file del Partito Democratico, è arrivato nelle ultime ore l'eurodeputato toscano Nicola Danti, che era quello a cui si riferiva il titolo dell'articolo. Sì, Grillo forse sta rimpiangendo aver messo a capo del Movimento 5 Stelle un uomo, per dire la Musil, senza qualità, che ha paura che Conte gli faccia ombra, perché poi è questo, la meschinità del ragionamento è questo, che viene ben sintetizzata da Di Stefano, sottosegretario 5 Stelle: la manovra deve essere nostra, Conte non abbia fretta, quindi è un problema di copyright. Subito anche carcere agli evasori, questo è quello che viene ribadito anche dal Fatto Quotidiano. Mentre il capo del governo raffrena e chiede collaborazione, diamoci tutti una calmata, uno scambio di sms non è bastato a riparare i rapporti, il leader 5 Stelle si sente deluso, gli ricorda chi lo ha messo lì, appunto, è sempre di quello, si fa la gara, direbbero qualcuno, a chi ce l'ha più lungo. Mentre abbiamo, secondo il Giornale, anche i Dem a questo punto sarebbero tentati al voto dopo la manovra. Questo va da sé che uno può dire che i giornali, giustamente, sarebbe un'osservazione sacrosanta, ci ricamano sopra, ma questo ricamo è reso possibile anche dai deliri, delle affermazioni o dai post che vengono messi dai vari esponenti della maggioranza. Allora eccolo qua: Renzi lancia l'amo che dentro Forza Italia, siete liberali, venite a darci una mano. Naturalmente non si capisce perché uno dovrebbe infilarsi in un partito del 4%, se non che con le elezioni parlamentari e con la crisi di Forza Italia si può promettere qualcuno un proseguo di carriera politica dentro il piccolo partito. Il leader d'Italia di IDV, Italia Viva, dobbiamo votare un capo dello Stato europeista e quindi andare avanti con o senza Conte. Anche qui si fa un occhieggiamento, si fa per sperare Di Maio di farlo finalmente premier, presidente del Consiglio, perché due volte Conte gli ha rubato la sedia. Questo è il quadro. Ma Urbani da Forza Italia: proposta assurda, voluto Conte 2, nel mondo di Forza Italia lui è il più detestato. Urbani: si conquista colonnelli, inutile, bisogna vedere poi si conquista i colonnelli, se l'elettorato seguono quei colonnelli che cedono alle lusinghe renziane, a meno che non siano dei capi bastoni del sud, allora è chiaro che il meccanismo del consenso è diverso. Ma Renzi ribattezza Forza Italia Viva con tanto di simbolo che scende dal tetto come Van d'Osiris. Appello agli elettori e agli eletti di Berlusconi: le scelte Salvini come il nemico, il PD come il competitore, continua a usare i 5 Stelle contro il Premier. Questo è il quadro che arriva dalla dal Fatto Quotidiano. Ci sono due protagonisti in questa assise di Leopolda che non ha visto peraltro grandi VIP essere presenti, e allora i due protagonisti sono: uno viene segnalato dal Corriere, la carica delle donne e qualche riciclato nella Betlemme del partito renziano, no? Cioè, Betlemme perché è il giorno della nascita. Teresa Bellanova, ecco il ministro protagonista sul palco, e tutto il popolo Leopolda si schiera con lei. Naturalmente il leaderismo trionfa, i quattro punti a fronte del leader di Italia Viva e i troppi applausi. Dice Renzi: da noi basta correnti, che significa che tutto decide il capo, perché se qualcuno non è d'accordo col capo non può organizzarsi, luce del sole, per creare il suo dissenso. No, questo non si può. O qui o mangi la mia minestra o salti dalla finestra. Vorrei aggiungere, a proposito di quello che si diceva prima e a quello che stai dicendo tu adesso, una perla di Brunetta, perché dice: i due Mattei sono geniali ma cannibali, se vai con loro finisci in pentola. Direi che meglio di così non si poteva riassumere. E allora in questa pentola è finita anche la Conti, sindaco di San Lazzaro, resa notte per gli asili gratis, un momento che ha avuto un consenso a sinistra, quindi anche questa tra l'altro testimonia con la Bellanova, e dice: Bonaccini non si tocca. Quindi per quanto riguarda la regione, Italia Viva si schiera fortemente con Bonaccini. D'altra parte il centrodestra naturalmente si rinfocola di fronte a questa situazione, sente il dolore del sangue, va domenica elezione in Umbria, dove i sondaggi li danno avvantaggiati, e sperano poi nell'effetto valanga travolgere anche dove i sondaggi diano svantaggiati, come l'Emilia Romagna. E allora Salvini è il centrodestra, Salvini ha fatto quest'altro che OPA, ha messo il tallone di ferro sull'alleanza di centrodestra, di destra a destra e ancora destra a questo punto, prevede novità dopo l'Umbria. Dunque il centrodestra è il passato, e quindi Berlusconi è messo a posto, è nata la coalizione degli italiani. Questo, il capo leghista, il bilancio della piazza con Berlusconi e Meloni, novità dopo l'Umbria per l'appunto. Allora di fronte alla coalizione degli italiani, tanto più mi torna in mente la canzone di Giorgio Gaber. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. A parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. E andiamo all'incubo del crack che tormenta il Vaticano, le anticipazioni e il lungo articolo di analisi di Ezio Mauro sul anche le ultime rivelazioni del libro di Nuzzi, Storie, nome e numeri di una crisi verticale. E se l'inferno fosse il crack, la crisi finanziaria del Vaticano, crescendo e allargandosi a tutte le strutture della Santa Sede, è arrivata ad evocare il fantasma finale, quello del sacro default. Ne parlano ufficialmente nei loro documenti riservati i responsabili della task force che Papa Francesco ha messo in campo per tentare una riforma radicale del sistema finanziario che sostiene la Chiesa davanti all'allarme per i conti fuori controllo. Il crack è diventato un incubo concreto nei sacri palazzi perché i numeri parlano chiaro. Quindi questo è quello che arriva dal Vaticano, i bilanci in rosso sul tavolo del Papa. Oggi l'inferno si chiama default, lo ripete anche nel sommarietto Repubblica. Giudizio universale, il nuovo libro di Nuzzi, come si è arrivati sull'orlo del fallimento. E ancora una gestione opaca, il sabotaggio degli sforzi di Francesco per cambiare le cose. E in questo libro troviamo anche gli sms inediti tra Genschwein e Viganò, i veleni si intrecciano con la crisi finanziaria. Storia di copertina del Fatto Quotidiano, il grande regalo dell'acqua in bottiglie, famoso oro blu. Fino all'ultima goccia il fatturato del settore arriva a 3 miliardi, ma nelle casse della regione entrano scarsi 20 milioni, perché le concessioni sono affidate a prezzi ridicoli. Anche qua tante volte si è parlato di revisione delle concessioni, ma tanto più tono che in questo caso non piove acqua. Gli affidamenti sono lunghissimi, per 30 anni spesso senza bandire una gara alla torta viene spartita tra 126 società, la Nestlé alla fetta più grande. Dei salinizzatori, via rischiosa per indipendenza idrica, queste invece le tecnologie dell'acqua H2O, che vengono segnalate come articolo di Corriere dal Fatto Quotidiano. Poi abbiamo sempre dal Fatto Quotidiano altri spunti sul versante della cronaca italiana. Per esempio parliamo di ambiente, le nanoparticelle di smog causano cancro al cervello, ma anche questo sembra non interesserà più di tanto. Salute d'affari, una ricerca canadese dimostra per la prima volta la pericolosità delle sostanze ultrasottili che escono dagli scarichi dei veicoli non regolamentati. I big dell'auto, guarda te, sono contro la riforma per regolamentare questi scarichi. Sempre sul tempo e sul clima, e l'emergenza maltempo in Liguria, scuole chiuse, si fermano i porti, dice il Secolo XIX, mentre le ultime ore parlano di un naufragio a Milano, la città è allagata, dall'acqua passiamo al fuoco invece, Torino è in fiamme, è la cavallerista reale, storico complesso architettonico del centro di Torino, dichiarato patrimonio dell'UNESCO. L'incendio è segnalato e sono squadre di vigili sul fuoco sul posto, non sappiamo ancora la gravità e l'entità dei danni. Ma poi abbiamo la cronaca tipica del lunedì, la foto con la bottiglia in auto con gli amici, si schianta, due vittime, Palermo e Rubriaco, e viene indagata a questo punto, i morti sono minorenni. D'altra parte ancora la cronaca drammatica, mi gira la testa, qui c'è il caos, la morte di Erika in discoteca, aveva 19 anni, l'ipotesi di un mix alcol e droghe, il locale fu chiuso per spaccio. E c'è un classico articolo un po' moralistico che viene stampato oggi, ma poteva essere stampato anche 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, o forse fino agli anni 50, quando arrivò James Dean, quei ragazzi senza più percezione del rischio, quando sono le corse automobili fino al baratro del burrone. Il mistero sulla fine del clochard col sassofono, trovato morto a Milano nella Linate, che in questo momento è sotto lavori, ma era il suo rifugio nonché la sua casa, con mani e piedi legati, un filo di ferro unico addosso, solo qualche effetto personale, uno spazzolino, nessun cellulare. Era il clochard col sassofono di Milano, conosciuto da molti per appunto questa sua vena artistica che durante il giorno manifestava al pubblico. Terremoto, resta lo stato d'emergenza, sono in arrivo 700 milioni e quindi il Carlino ci anticipa la bozza del nuovo decreto che verrà presentato oggi in Consiglio dei Ministri. E poi vi segnalo sulla stampa una buona notizia, l'Italia che cambia, sempre da Milano, Buccinasco per la precisione, le case dei boss alle famiglie in difficoltà, così la platì del nord, come viene chiamata Buccinasco dopo l'inchiesta nord-sud, ha battuto la mafia, è stata conquistata dalle 'ndrine negli anni 60, le prime inchieste contro i clan risalgono al 1990, oggi il comune destina gli spazi confiscati a coppie indigenti, donne vittime di abusi, anziani ancora autonomi e bambini. Un'ex pizzeria è stata trasformata in un polo creativo per bambini e nei weekend i figli disabili sono accuditi per lasciare riposare i loro genitori. Targhiamo questa nostra rassegna stampa con 10 storie di povertà e di lotte collettive, di miserie e di dignità. In realtà questo è Malabrocca, l'ultimo libro di Valerio Monteventi, che è stato presentato ieri a Vaghe 61. Il nostro direttore Alessandro Canella ne ha parlato con l'autore. Con questo vi salutiamo e diamo appuntamento domani, sempre adesso ora. Ciao a tutti. Il filo comune è che i protagonisti sono persone che si trovano molto spesso ai margini della società e comunque il loro viaggio, che parte da un viaggio singolo, poi entra in un percorso collettivo di lotta anche per riuscire a superare la loro condizione. Il tema della casa è un tema che attraversa molte di queste storie, la lotta per la casa, per avere un tetto. Il titolo Malabrocca fa riferimento insomma a una storia di un ultimo, di Luisin Malabrocca, che era un ciclista che correva all'epoca di Coppie Bartali e fece un ragionamento molto semplice: non ce n'era per cercare di arrivare primo o secondo, arrivare terzo o quarto non si sarebbe passati alla storia, e lui decise di scientificamente di arrivare ultimo, cercò tutte le tecniche per ottenere questo risultato. Non a caso riuscì anche attraverso questo suo atteggiamento a far istituire la maglia nera al Giro d'Italia per l'ultimo posto. Però anche arrivare ultimo non era una cosa semplice, nel senso che bisognava fare in modo di non superare mai il tempo massimo, cioè di non perdere più di 20 minuti ogni 100 chilometri.